il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Noi in questa trasmissione parliamo di persone in carne ed ossa, però spesso ci piace che queste persone rappresentino veramente qualcosa. Ecco, questa è una storia perfetta in questo senso, perché oggi parliamo di un uomo diventato il simbolo universale di una resistenza, la difesa di un popolo, quello dei nativi americani, cioè di quelli cosiddetti indiani. E raccontiamo la storia di Tashunka Witko, che in realtà è passato alla storia come cavallo pazzo. Tatanka. Tantaka? Tatanka. Tatanka. Tatanka. Tatanka. Bisonte. Oh. Bisonte. Tatanka. Bisonte. Il feroce, come lo chiamo io, deve essere uno molto scorbutico. Spero di non doverlo mai affrontare, anche se mi sembra molto leale e diretto. Il tranquillo, invece, mi piace moltissimo. Ha dimostrato di essere paziente, curioso, di avere voglia di comunicare. Deve essere un personaggio di rilievo nella sua comunità. Bisonte. Questa è una scena di Balla con i lupi con Kevin Costner e racconta un incontro pacifico, quello tra un soldato americano, una giubba blu, e due indiani Sioux. Quasi un incontro di culture curiose l'una dell'altra. Beh, sappiamo benissimo che la storia non è andata così. Il risultato dell'incontro tra i bianchi, che gli indiani delle pianure chiamavano con disprezzo Washiku, cioè quelli che rubano il grasso, e i nativi americani, è stato un vero e proprio genocidio. È stato l'annientamento di un popolo, di una cultura millenaria, di un sistema di vita. È uno scontro che il nostro protagonista di oggi ha vissuto nella sua fase più importante. Lui è uscito vinto, ma non sconfitto. Sentiamo Charles Chips, che è la guida spirituale della tribù di Cavallo Pazzo, che si chiamavano Oglala Lakota. It was only his body that was killed. Fu solo il suo corpo ad essere ucciso, non il suo spirito, poiché tutto ciò che oggi muore, muore nel corpo, non nello spirito. Qualcuno dice che Cavallo Pazzo non ha bisogno di una lapide, perché è la terra ad essere il suo segno distintivo. Perché lui credeva che questa terra appartiene a Dio, l'Onnipotente, e noi nativi crediamo che siamo noi ad appartenere alla terra, e non viceversa. And not the earth belong to us. Di Cavallo Pazzo per molto tempo si è saputo pochissimo, neanche il suo anno di nascita. Tutto quello che si conosceva di lui arrivava da fonti non oggettive, cioè da quei bianchi che l'avevano combattuto, che avevano sterminato il suo popolo. Questo fino al 1930, quando una ricercatrice americana, Eleanor Hinman, riuscì a intervistare dei vecchi indiani ormai da decenni confinati nelle riserve, indiani che lo avevano conosciuto bene, e tra questi un suo caro amico e compagno di battaglia, Louis Kane, che per primo rivelò notizie importanti su Crazy Horse, Cavallo Pazzo, a partire proprio dall'età. Sarò lieto di raccontarvi di Cavallo Pazzo quello che vorrete sapere, perché sono un uomo molto vecchio e non vivrò ancora molto a lungo, ed è il momento che io racconti alcune cose. Io e Cavallo Pazzo siamo nati entrambi nella stessa stagione dello stesso anno, siamo cresciuti assieme nella stessa tribù. Abbiamo giocato, abbiamo corteggiato le ragazze e combattuto, sempre assieme. Io ora ho 92 anni, quindi potete calcolare in quale anno del vostro calendario sia nato Cavallo Pazzo. Come tutti i Sioux, Cavallo Pazzo non nasce con questo nome, gli verrà ceduto più avanti dal padre. Il primo nome che gli viene assegnato è qualcosa che suona come Riccetto, ricciuto, per un aspetto strano, diverso dagli altri indiani, e i capelli quasi ricci di uno strano castano chiaro. Ecco come lo descrive un altro amico, Toro Basso. Le sue fattezze non erano simili a quelle di tutti noi. Il suo viso non era largo e aveva un naso alto e sottile. Ai suoi occhi non sfuggiva nulla di quello che aveva intorno. Ricciuto nasce in una tribù di Oglala Lakota, che è una delle tante propaggini dei Sioux, come li chiamiamo genericamente. Il luogo di nascita è nella zona delle colline nere, che sono le colline sacre dei Sioux. Questa tribù dominava con la forza su altre popolazioni native confinanti. Era un popolo potente di cacciatori e di guerrieri. Ce lo racconta anche Joseph Marshall III, che era uno storico dei Lakota. The Lakota controlled the largest territory. I Lakota controllavano il territorio più vasto, dal fiume Missouri fino alle montagne del Bighorn e a sud fino alla regione del fiume Platte. E questo dimostra non necessariamente la loro aggressività, bensì la vastità della popolazione e la loro volontà di difendere quel territorio. I loro nemici erano i Crow e gli Apani nel sud, i Ricoro nel nord, ed ogni incursione nel loro territorio veniva respinta immediatamente. E sembrava quindi legittimo ricacciare questi invasori nelle zone da cui provenivano. Era necessario dimostrare a chiunque venisse percepito come nemico che quello era un territorio Sioux. E la vita di quello che diventerà cavallo pazzo prima dello scontro finale coi bianchi è questa: cacciare e fare scorribande contro le tribù vicine. Non solo, fin da ragazzo il nostro protagonista di oggi si mette in luce nella tribù perché è molto generoso, ha un'abitudine, quella di regalare cibo alle famiglie senza un cacciatore in casa capace di procacciarsi del cibo, come le donne rimaste sole, come i vecchi, e ve lo racconto tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Cavallo Pazzo, il simbolo, l'emblema della resistenza dei nativi americani all'invasione dei bianchi americani, quelli che nella metà dell'Ottocento distrussero intere popolazioni di indiani, li hanno ridotti alla miseria, alla dipendenza, non hanno fatto in modo che avessero da mangiare. Tutto questo fatto dal governo americano, che li ha chiusi nelle riserve dopo aver rubato loro le terre. Curioso che poi per gli altri 200 anni a venire gli americani si sono scandalizzati se qualcun altro faceva anche meno di quello che hanno fatto loro e sono andati a esportare il loro modello di democrazia a suon di bombe per tutto il mondo. Comunque, Cavallo Pazzo guidò gli indiani delle pianure contro i soldati in una guerra che culminò in una battaglia mitica, la battaglia di Little Big Horn contro il generale Custer, e lui non poté cambiare le sorti del suo popolo. Evitò il contatto con i bianchi finché fu possibile. Pensate che di lui non c'è neanche una fotografia. Cresce nella zona delle colline sacre dei Sioux, le Black Hills. Il padre finalmente gli cede il suo nome, Cavallo Pazzo, dopo che lo vede tornare da una scorribanda contro una tribù confinante quando è poco più che adolescente e in mano a due scalpi. Gli anni di passaggio tra adolescenza e età adulta per un indiano Sioux sono quelli in cui si cerca la visione, una sorta di rito. Cavallo Pazzo che si allontana dal suo accampamento da solo, non esegue i riti di purificazione previsti, non aspetta i consigli di qualche anziano come la tradizione prevede, semplicemente se ne va in cerca della sua visione. Sentiamo ancora lo storico dei Lakota, Joseph Marshall. Si ritirò in un'area desertica e non beve acqua né mangiò per giorni. Nella nostra cultura, questo processo di indebolimento dovuto al digiuno porta all'apertura del corpo e della mente per ricevere la visione. Lui attraversò quel processo ed ebbe la sua visione. Ed essenzialmente quella visione era il suo stesso futuro. A migliaia di chilometri e secoli di distanza da Gesù che va nel deserto, a migliaia di chilometri e secoli di distanza dalle privazioni ascetiche di religioni orientali, anche lì siamo su questo territorio. E questa è una cosa molto interessante. La visione che Cavallo Pazzo cerca arriva. Larry McMurtry, che è un autore di un libro sul guerriero Sioux, racconta questa visione in questo modo. Sembra che egli avesse sognato un cavaliere che si librava in aria sopra le praterie. Il cavaliere era vestito in maniera molto semplice, non aveva il viso dipinto ed era al contrario estremamente umile. Il suo cavallo, che volteggiava nell'aria, sembrava in qualche modo magico. Il cavaliere disse a Cavallo Pazzo che non avrebbe dovuto agghindarsi né indossare abiti da guerra. Gli era concessa solamente una piuma. Gli fu detto poi di gettare una manciata di sabbia sul suo cavallo prima di lanciarsi nella lotta e di portare una piccola pietra dietro l'orecchio. Pare che la visione quindi gli avesse mostrato una battaglia durante la quale le braccia del cavaliere venivano a un certo punto bloccate proprio da qualcuno della sua gente. Tuttavia, né un proiettile né una freccia lo colpirono. Il cavaliere raccomandò a Cavallo Pazzo di non tenere mai nulla per se stesso. E per tutta la vita Cavallo Pazzo seguirà queste indicazioni, non vestirà mai in modo sgargiante, i suoi colori di guerra in battaglia saranno sempre molto semplici e vivrà con il timore, che poi si rivelerà fondato, di morire per mano o con il coinvolgimento della sua gente. Lo vedremo più avanti. L'idea che Cavallo Pazzo si fa dei bianchi è determinata da questo episodio della sua gioventù che vado a raccontarvi. Dunque, una mucca di proprietà di un mormone si allontana, si avvicina all'accampamento Oglala, dove vive lui, Cavallo Pazzo. Un guerriero del campo la cattura, la macella, senza pensarci troppo su. Il mormone protesta e torna lì con una guarnigione militare. State attenti, i soldati del presidio chiedono di consegnare il responsabile. I Sioux propongono di risarcire il mormone con una quantità di cavalli di valore molto molto superiore a quello della vacca. Bene, i soldati cosa fanno? Concludono la vicenda come nella migliore tradizione della cavalleria americana e della cultura americana in genere: un attacco al villaggio, il conseguente massacro di guerrieri, donne, vecchi e bambini. Cavallo Pazzo non è nell'accampamento, al suo ritorno trova questo scempio. Ancora lo storico Joseph Marshall. Elaborò la sua opinione sui bianchi in seguito a questo incidente. E questo fu all'origine del suo atteggiamento da quel giorno in poi. Da quel giorno non ebbe più alcuna fiducia nei confronti dei bianchi. Direi che non posso che capirlo. Questa è solo una delle tante stragi contro le quali si muoveranno i guerrieri Sioux. Negli anni 1850-1860 lui diventa sempre più un leader insieme a un altro personaggio, Toro Seduto, della tribù dei Sioux Hunkpapa, che è una sorta di guida spirituale degli indiani ribelli. Nel 1864 i soldati del Terzo Cavalleggeri compiono una delle stragi più efferate. Agli ordini del colonnello John Chivington si lanciano su un villaggio Cheyenne e Arapaho sul fiume Sand Creek. Ci sono solo persone inermi. Vengono uccisi un numero imprecisato, più di 150. Sull'onda di quel massacro molte tribù di nativi dissotterrano l'ascia di guerra. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Cavallo Pazzo, il più grande guerriero Sioux di sempre, che viene ricordato quasi come un messia indiano, uno spirito che ancora oggi veglia su ciò che rimane del suo popolo. In realtà stiamo raccontando una storia di massacri, una storia terribile della quale ovviamente si parla pochissimo. Il massacro perpetrato dagli americani bianchi, che compirono un genocidio nei confronti dei Sioux. Cavallo Pazzo visse solo 37 anni, in quegli anni difese la sua gente, non tenne mai nulla per sé, donava selvaggina, cavalli ai più poveri della sua tribù. Visse la guerra Sioux a fianco di Toro Seduto, la guerra che culminò con la grande battaglia di Little Bighorn, guerra che non riuscì a arrestare la fine di una cultura e di un popolo. Le imprese di Cavallo Pazzo contro gli invasori Yankee gli portano da subito onori tra la sua gente, ma anche invidie, soprattutto da parte degli altri personaggi di rilievo dei Sioux, non ultimo il famoso Nuvola Rossa, l'uomo degli storici e peraltro inutili accordi di pace con il grande padre bianco che sta a Washington. Cavallo Pazzo in quegli anni diventa portatore di casacca degli Oglala. Sentiamo ancora lo storico Lakota Joseph Marshall. It was a position of responsibility. Era una posizione di responsabilità, perché da lui dipendeva il benessere della sua gente. Se qualcuno era affamato, era sua responsabilità offrirgli cibo. E se qualcuno era senza dimora, doveva fornirgli un riparo. Insomma, il suo compito era quello di prendersi cura delle esigenze più basilari della sua gente. Ma Cavallo Pazzo non è solo un grande guerriero, è anche e soprattutto un uomo. La casacca la perde per una donna, per una storia d'amore, e in pratica si innamora di una donna che è già stata promessa a un compagno di tribù, Senz'acqua si chiama. Quando i due sono già sposati, Cavallo Pazzo convince la ragazza, Donna Bisonte Nero. La convince a scappare con lui, e è una pratica che viene accettata dai Sioux a fronte di un risarcimento, però Senz'acqua non ci sta a fare, diciamo, la figura del cornuto, che non è così popolare neanche tra gli indiani. Insegue la coppia, li raggiunge, entra nella tenda dove si trovano in quel momento, spara in faccia a Cavallo Pazzo e si riprende la moglie. Lo colpisce sotto la narice sinistra, gli spacca la mandibola e il proiettile entra, esce senza danni irreparabili. Cavallo Pazzo guarisce, però gli viene tolta la casacca perché non ha anteposto il bene della tribù al suo. Nel frattempo i bianchi hanno smesso di spararsi tra di loro nella guerra civile e cominciano a concentrarsi militarmente nelle grandi pianure. Sono gli anni della guerra di Nuvola Rossa, a cui partecipa anche Cavallo Pazzo, e mentre intrattengono i capi indiani in diversi consigli di pace, gli americani aprono una pista proprio vicino alle sacre colline nere, la cosiddetta pista Bozeman. Praticamente costruiscono fortini lungo quella pista per proteggere minatori e taglialegna. Mi viene in mente quando io da bambino costruivo i fortini anch'io, con dentro i cowboy o i soldati con la giubba blu, e pensavo che quelli fossero i buoni. Bene, non è così. Gli scontri sono molto feroci, scorre molto sangue, però non solo indiano, perché nel caso della strage di Fetterman, per esempio, un ufficiale delle giubbe blu, vittima della strategia militare di Cavallo Pazzo, in una famosa battaglia perde, e tra l'altro lui era famoso per aver detto che con 80 uomini sarebbe stato in grado di annientare tutta la resistenza indiana. Bene, il 21 dicembre del 1866 la sua spavalderia viene messa a tacere dal destino. Cavallo Pazzo usa un gruppo di guerrieri per attirare lui e le sue truppe fuori dal forte fino a una gola tra le colline. Sentiamo lo storico Joseph Porter. Una volta dentro a questa trappola, dai 1500 ai 2000 Cheyenne, Lakota e guerrieri Arapaho colpiscono, sterminando Fetterman e i suoi uomini. Ironia della sorte, quando la morte li colpisce, il capitano Fetterman e i suoi uomini sono 80. La cosiddetta guerra di Nuvola Rossa si conclude nel 1868 con un accordo di pace firmato a Fort Laramie dallo stesso Nuvola Rossa e da altri importanti capi. Cavallo Pazzo capisce, non solo non firma l'accordo, neanche si vuole sedere nello stesso tavolo dei bianchi. Il trattato assegna per sempre ai Sioux le loro terre native, comprese le colline nere, in teoria le rende off limit per i bianchi. Bene, durerà pochissimo tempo, perché nel 1874 avviene, diciamo, la scoperta dell'oro, che in realtà poi non era una scoperta così significativa, era più una grande illusione, e questo oro sarebbe proprio nel cuore del territorio Sioux, le Black Hills. Lo trova una spedizione di militari che hanno già violato il trattato, peraltro. E intanto Nuvola Rossa e Coda Chiazzata hanno abbassato la guardia, hanno deposto le armi, hanno scelto di vivere in accordo con i bianchi. La resistenza è solo nelle mani e nelle armi di Cavallo Pazzo, perché con lui c'è solo Toro Seduto. I due guidano la parte che non vuole arrendersi a questa logica, e insieme saranno però protagonisti di un episodio della storia americana che rappresenta la più grande vittoria degli indiani sull'esercito a stelle e strisce, però l'inizio della fine delle tribù delle grandi pianure. La battaglia è quella di Little Big Horn. È l'estate del 1876, sulle sponde del fiume Little Big Horn c'è uno dei più grandi accampamenti di sempre degli indiani, perché ci sono Lakota Sioux di varie bande, gli Ungpapa di Toro Seduto, però anche gli alleati Cheyenne, in tutto 1000 guerrieri con le loro famiglie. Il governo ha lanciato un ultimatum, quello di andare entro una certa data nelle riserve, loro non l'hanno fatto e adesso sono considerati ostili. Contro di loro muove un generale che gli indiani chiamano Lunghi Capelli, e il discusso George Armstrong Custer. Custer è nei pressi del grande accampamento, però sottostima il numero di guerrieri presenti e la loro forza. Il tuo consiglio è che mi inoltri nella valle? Sì, signore. Secondo te non ci sono indiani laggiù, immagino. Non ho detto questo. Ci sono migliaia di indiani là in fondo. E quando vi avranno liquidato, non ci resterà che una macchia di grasso per terra. Questo non è il fiume Washita, generale. E ad aspettarvi non ci sono donne e bambini indifesi, ma guerrieri Cheyenne e Sioux. Andate laggiù se avete coraggio. Vorresti indurmi in errore facendomi pensare che non vuoi che vada laggiù. Ma la verità inconfessata è che tu non vuoi davvero che io vada laggiù contro i tuoi amici. E allora vacci. Beh, questo era Dustin Hoffman in Piccolo Grande Uomo. Il generale Custer, con i suoi 800 uomini del settimo cavalleggeri, compie una serie di errori tattici e strategici. Intanto quello di dividere in tre gruppi le sue truppe, perché lui cerca la gloria e si dice che addirittura si voglia candidare alla presidenza. Insomma, vuole rilievo. I battaglioni guidati dai suoi ufficiali si lanciano sul villaggio, spuntano da ogni parte guerrieri urlanti che respingono l'attacco, si lanciano all'inseguimento delle truppe americane in ritirata. In poche ore i guerrieri guidati da Cavallo Pazzo massacrano oltre 250 uomini, tra ufficiali, soldati e scout, e riportano poche perdite, forse meno di 40 morti. Sul campo resta lo stesso Custer insieme ai suoi sogni di gloria. E questa per i Sioux è l'inizio della fine, perché i giornali americani, dando il via a una usanza che in America prosegue ancora oggi, raccontano a loro modo quella strage. Ne parlano come una strage immotivata, opera di selvaggi contro le forze del bene, un'onta da lavare col sangue. Pensate che ancora oggi c'è un monumento sul posto che ricorda solo i caduti dell'esercito e non i guerrieri indiani nativi di lì. Comunque, le forze indiane si dividono subito dopo Little Big Horn. Il gruppo di Toro Seduto scappa in Canada, quello di Cavallo Pazzo affronta un inverno in condizioni disperate. I suoi guerrieri in quei mesi combattono altre battaglie, azioni di guerriglia contro cercatori d'oro e coloni bianchi, ma ormai il tempo dei cacciatori di bisonti è finito. Cavallo Pazzo, per salvare la sua gente dalla fame e dal freddo, si arrende con 900 Oglala a Fort Robinson nel maggio del 1877. E morirà lì, mentre cercano di arrestarlo pochi mesi dopo, temuto dai bianchi per il suo carisma e dagli altri capi tribù per la stessa ragione. Viene tradito di fatto dalla sua gente, perché i soldati gli chiedono di fare per loro la guida contro altri indiani in fuga e di altre tribù. Cavallo Pazzo accetta, controvoglia, però un traduttore Lakota riferisce ai soldati che il guerriero ha detto di volere tornare in guerra contro i bianchi. L'ordine è di arrestarlo. Quando i soldati ci provano, lui reagisce. Un suo vecchio amico, Piccolo Grande Uomo, gli trattiene le braccia. Un soldato lo colpisce alla schiena con la baionetta. Cavallo Pazzo, l'anima della resistenza Sioux, muore dopo pochi giorni di agonia. Cavallo Pazzo oggi è una figura indimenticata tra la sua gente. I suoi discendenti vivono ancora oggi dove il governo americano li ha costretti a vivere, nella riserva di Pine Ridge nel Sud Dakota. Il tasso di suicidio tra i nativi è tra i più alti del mondo, come anche il tasso di disoccupazione, quello di alcolismo. Bene, con noi al telefono c'è un profondo conoscitore della cultura Lakota, c'è Enzo Braschi, e l'avete conosciuto a Drive-In, ma adesso insomma si occupa di ben altre cose. Ciao Enzo. Ciao. Bene, dunque, noi abbiamo raccontato una storia che forse non tutti conoscono in questi termini. Tutti noi che quando eravamo bambini giocavamo ai soldatini e pensavamo che i buoni fossero quelli con la giubba blu e i cattivi fossero gli indiani, i Sioux, eccetera. Poi abbiamo scoperto che era andata esattamente nel modo contrario, e quindi oggi noi abbiamo parlato insomma di massacri, di un vero e proprio sterminio, di un genocidio. Tu a Pine Ridge ci sei stato. Come vivono oggi i discendenti di Cavallo Pazzo e di quei guerrieri? Allora, io a Pine Ridge ci sono stato ed è una delle riserve più povere. Perché? Perché era la riserva di Nuvola Rossa, è stata la riserva della grande conquista, riconquista della propria cultura da parte degli Oglala e da parte di quella che era la cultura più combattiva, che era la cultura dei Lakota, per la riconquista delle proprie terre che erano state private, soppresse e rubate dall'uomo bianco. Esatto. Si vive molto male, nel senso che il governo americano cioè il buon Obama e prima di lui tutti gli altri, fanno finta, i governi, certo, fanno finta di voler riconsegnare la cultura ai nativi. Tu hai anche un nome indiano, vero? Ne ho due. Io ho fatto 7 danze del sole, ho avuto una visione. Oggi essere visionari è un'accusa per certo, i nativi americani, è l'alfa e l'omega. Avere una visione, io ho avuto questo grande onore, vuol dire vedere un qualcosa che non potrebbe, non dovrebbe esserci in quel momento. Allora, io ho avuto un nome che si chiama Bisonte che corre e mi fu detto: tu scrivi libri su di noi, porti la nostra cultura nel mondo occidentale, in una vita precedente sei stato uno di noi, perché sennò non potresti ritornare nei territori dove c'è la danza del sole, perché non sono connotati da alcuna cartina geografica, e per noi sei un capomandria, con i tuoi libri scrivi di noi, porti la tua cultura nell'Occidente, e i primi penseranno che sei un pazzo, poi qualcuno ti seguirà, poi forse un domani una moltitudine. Il secondo nome mi fu dato da un capo apache mescalero, è un uomo che sollevò il suo spirito al di sopra del nuvole. Disse: fai ridere, sei un comico, quindi dai l'allegria quando tutti soffrono. Che bello onore, dico, che mi dai. Per me è una grande cosa questa. Grazie Enzo, grazie. Prego. Veramente, ciao, grazie. Un abbraccio. Di fronte al monte Rushmore, quello dove ci sono i faccioni dei 4 presidenti americani, c'è una storia da raccontare, si meriterebbe una puntata, la sfioro. C'è uno scultore polacco che si chiama Ziolkowski che nel 38 inizia a pensare a fare un monumento a cavallo pazzo, inizia nel 48 e nel frattempo muore, va avanti la figlia, e adesso ci sono artisti e volontari che stanno proseguendo questa opera. L'obiettivo è già, e si può vedere quanto siano vicini al punto d'arrivo, l'obiettivo è quello di costruire una statua che sarà alta 169 metri e che indicherà le Black Hill, e la statua naturalmente è cavallo pazzo, per rendere giustizia a un uomo giusto, come ha detto prima Enzo Braschi. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto anche oltre la loro scomparsa fisica. Cavallo pazzo è stato sconfitto, rimane per ricordare un genocidio terribile, una grande ingiustizia da parte di un popolo che fu veramente crudele con gli indiani, e come è stato poi un po' in giro per il mondo nei secoli a venire, il popolo americano, e la storia è quella del popolo indiano che era nato e viveva nelle terre che sono state loro espropriate. Ciascuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, può dare anche un colpo d'ala che lo porta a volare in alto, o anche solo a raccontare chi ha volato in alto. Se voi avete altre vite su cui puntare i riflettori, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, oppure visitate la nostra pagina, i miei social, i nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. A Ugo.